sarò alla tua porta, avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche eppure, avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche.